La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, buon mercoledì 12 di marzo. In questo mercoledì 12 di marzo che è cominciato la mattina, poche ore fa, con un voto alla Camera sulla riforma elettorale che ha, come avete sicuramente seguito in questi giorni, riservato a Renzi dei segnali tellurici da parte del suo partito, il PD, con Bersani, l'ex segretario, che ancora stamattina gli ha detto: beh, tu è inutile che fai polemica perché al Senato bisognerà cambiarla, e ringrazia del nostro contributo. Ora siamo in attesa, mentre andiamo in onda, della conferenza stampa a chiusura del Consiglio dei Ministri, in cui verranno illustrate le misure molto attese per dare questa scossa all'economia. E in questi ultimi giorni si è chiaramente capito, anche se naturalmente dovremo attendere i provvedimenti, che in questi 10 miliardi, fatidici 10 miliardi di cui ci sarebbero le coperture, anzi coperture così certe, ha detto Renzi, che ha fatto scrivere a tutti i giornali stamattina che ce ne sono addirittura 20 di miliardi di coperture pronti, però questi primi 10 miliardi, quello che si è capito è che il Presidente del Consiglio ha fatto una scelta di indirizzarli tutti, o vedremo, due terzi o tre quarti, ma insomma maggioritariamente soprattutto sull'IRPEF, e soprattutto concentrandoli su coloro che appartengono agli scaglioni più bassi, che sono in realtà poco oltre quegli 8.000 euro di esenzione IRPEF nel nostro paese. Abbiamo un'esenzione IRPEF che è significativamente più bassa di quelli di altri paesi in crisi. Pensate, l'ho già detto, ma in Spagna era 11.000 euro l'esenzione e Rajoy ha annunciato di portarla a 12.000 euro. Però il più dovrebbe essere concentrato appunto entro la fascia dei 15.000 euro l'anno. Bisognerà vedere se ci sono misure anche per gli incapienti, come vuole il sindacato. La scelta è quella di sommare a questo intervento quello del già disposto dal governo Letta. Renzi, un po' enfaticamente secondo me, parla di 1.000 euro in più nelle tasche annualmente per chi ha più basso reddito da lavoro dipendente, e avete visto che in questi giorni si è sviluppata tutta una polemica perché le imprese restano un po' a bocca asciutta, restano a bocca asciutta i lavoratori autonomi, le piccole imprese. L'intervento sull'IRAP, tante volte promesso, non ci sarebbe, e in attesa di capire davvero quali siano questi provvedimenti, oggi facciamo un'altra riflessione con un altro interlocutore. Al quale io, sbagliando, non credo, ma insomma modestamente attribuisco una grande credibilità, e che domenica sera mi è piaciuto molto, ospite di una trasmissione televisiva, La Gabbia. Abbiamo con noi il professor Riccardo Puglisi, che insegna economia politica all'Università di Pavia. Grazie di essere con noi questo pomeriggio, professor Puglisi. Buongiorno a voi. Allora, posso chiedere innanzitutto, lei in questa diatriba tra IRPEF e IRAP, la sua opinione e la sua analisi di quali sarebbero le conseguenze per rialzare l'auto e potenziale, la crescita breve del nostro paese, facendo una scelta piuttosto che l'altra? Sì, beh, partendo dalla premessa che è una buona cosa che vi siano degli sgravi fiscali, direi che io leggermente propendo per il fatto che si sarebbe dovuto privilegiare un intervento sull'IRAP, per questa ragione. Non penso che comunque il taglio IRPEF abbia degli effetti, e una volta è ragionevole concentrarlo sulla parte bassa della distribuzione del reddito, ma la variabile cruciale a cui, a mio parere, in questa fase bisogna pensare sono gli investimenti che vengono fatti dalle imprese, e gli investimenti sono il volano per riportare in alto l'occupazione, cioè diminuire la disoccupazione. Sinceramente mi trovo d'accordo con Squinzi sul tema della dialettica e di cosa scegliere nella dialettica tra salari reali e disoccupazione. Io penso che in questo momento la variabile cruciale non sia il tema del salario reale, ma il tema della disoccupazione. La questione è lanciare un segnale dal punto di vista di un clima più favorevole alle imprese, perché sono le imprese che creano occupazione. Questo è il dato di fatto fondamentale. Quindi sinceramente poi quali siano gli effetti di un taglio IRAP o un taglio dell'IRPEF sulla disoccupazione, evidentemente, come tutte le cose econometriche e statistiche, c'è incertezza, non c'è nulla di deterministico, ma se proprio uno vuole tener conto sensatamente di questa incertezza, io avrei fatto una mossa salomonica, metà uno, metà l'altro. E qui però c'è l'obiezione che tiene conto del precedente Prodi, che metà l'uno, metà l'altro, cioè 5 miliardi e 5 miliardi, avremmo sfiorato dato, non voglio dire l'insignificanza, ma quasi come soglia di apprezzabilità dell'effetto di potenziamento della crescita. C'è anche chi dice, criticando l'attribuzione alla detrazione IRPEF del più delle misure, guardate che è vero che le classi di reddito più basse hanno una più elevata propensione al consumo sul loro più modesto reddito disponibile, però è anche vero che in quel caso noi con gli acquisti naturalmente avvantaggiamo anche la quota di import nazionale rispetto alle imprese. Concentrandosi sull'IRAP invece, questo era il ragionamento che faceva ieri mattina il professor Ricolfi sulla stampa, noi pensiamo soprattutto a chi non è garantito rispetto invece a detrazioni IRPEF di chi, anche se a basso reddito, un lavorino ce l'ha. Ecco, tra tutte queste obiezioni, quale la convince e quale no, professor Puglisi? Allora, direi che trovo molto sensata l'obiezione ultima che di Colfi a proposito dell'effetto che c'è di più dal lato dell'IRPEF che dal lato dell'IRAP. C'è un tema, per esempio quello affrontato da Divico oggi, dei lavoratori autonomi, che se non si tocca l'IRAP poco verrebbero toccati. In generale c'è un tema di quanto si vuole mettere in campo in termini di taglio dell'imposizione fiscale. La discussione sul cuneo fiscale, che è connessa alla discussione sull'IRPEF, dimentica il fatto che la maggior parte del cuneo fiscale, la larghissima parte del cuneo fiscale, serve per finanziare i trasferimenti pensionistici. Era interessante leggere oggi l'intervista al Corriere della Sera di Susanna Camusso che sinceramente non vorrei essere troppo provocatorio, ma suonava quasi come un semi azionista di maggioranza del governo Renzi, quindi apprezzava il fatto che si va nella direzione del taglio dell'IRPEF, ma dall'altra parte metteva le mani avanti sul non toccare i pensionati, eccetera eccetera. Sappiamo tutti che la maggioranza assoluta della CGIL, dei membri iscritti alla CGIL, sono pensionati, il 54% se non vado errato. Le tasse in Italia sono elevate perché la macchina dello Stato è estremamente costosa, ci sono sprechi, ma ci sono anche tanti trasferimenti, ci sono 260 miliardi di trasferimenti per pensioni. So di non toccare un tasto politicamente a meno, ma questo è quanto. Se uno guarda gli ordini di grandezza, che è un modo, come dice, raffinato, ingegneristico, quel che l'è, per dire cosa è grande e cosa è piccolo, 260 miliardi di pensioni sono, a mio parere, la parte dove toccare, e spero sinceramente che la spending review di Cottarelli vi sia una parte importante dedicata a questo, anche tenuto conto del fatto che i soldi, una parte rilevante dei soldi della liquidità necessaria per fare questi sgravi proviene dalla spending review di Cottarelli, ma c'è un costo politico. Come diceva Ugo La Malfa, bisogna sempre domandarsi chi paga. C'era una specie di sospiro di sollievo di Susanna Camusso che traspariva dalle sue parole relativamente al fatto che la parte dei trasferimenti era presidiata, e questo a mio parere è male per la crescita economica. Anche perché, ma qui apriremo un altro capitolo sull'argomento delle pensioni, perché qui fioccano gli immediati sms che dicono volete tagliare ancora le pensioni dopo le forna. No, qui c'è una questione intergenerazionale degli eccessi. No, ecco, perché lei la tocca molto spesso, come ha ragione, c'è un problema di chi ha avuto, del tutto legalmente secondo le regole allora in vigore, per carità, però dei trattamenti con il sistema retributivo al cui confronto poi dopo quei trattamenti non esistono più, e c'è secondo me un grande problema inter e intragenerazionale, ma questo è un altro paio di maniche per far capire a chi è a casa qual è, certo, il vero punto. Ecco, senta, ma lei ha sorriso un po' in questi giorni di fronte al fatto che la Camusso si beccava le rampogne di Renzi, che diceva mi farò una ragione del fatto che il sindacato a CGIL mi critica, mentre invece Renzi gli mandava delle letterine quasi d'amorosi corrispondenza di sensi con Renzi? Che senso ha questa cosa, secondo me? Ha senso che immagino che Renzi, dal punto di vista della Realpolitik, passando dal 2012 al 2013, cioè dalle prime primarie alle seconde primarie, abbia capito che comunque è il segretario, adesso è il Presidente del Consiglio, ma è il segretario del PD, ovvero sia di un partito che ha, come si dice, una base elettorale importante e un appoggio importante da parte del sindacato, e tra l'altro una base elettorale molto spostata in avanti dal punto di vista dell'età. Questo è un dato che, se uno va a vedere i dati elettorali, non sono molto Così. Di moda, però bisogna andare a vederli, perché questi sono e mi consente anche un'altra osservazione, questa non la faccio fare a lei, perché non è giusto chiedere un'opinione politica a un economista. Io ho l'impressione che l'andamento del dibattito nel PD in questi giorni, tutte le frecciate siluriche che partono verso Renzi, abbia ancora di più convinto Renzi nel mentre sta rispondendo ai tanti dissensi nei suoi gruppi parlamentari. Vedremo al Senato, guardate che al Senato la legge elettorale faticherà molto perché non c'è la maggioranza così ampia come alla Camera, si sia convinto apposta a fare una manovra più di sinistra, come si direbbe un tempo, per questo più IRPEF su chi ha meno reddito dipendente piuttosto che imprese. Posso sbagliare, ma questa è la mia opinione. Ora sospendiamo per 60 secondi l'informazione sulle strade e poi torniamo col professor Puglisi a parlare della manovra che verrà. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati in diretta agli studi di Radio 24. Per una volta siamo da Roma e non da Milano, in attesa qui della conferenza stampa del Presidente del Consiglio sulle misure varate dal Consiglio dei Ministri oggi. Ne stiamo parlando col professor Riccardo Puglisi, che insegna economia politica all'Università di Pavia. Vi ha spiegato dal suo punto di vista, e anche il mio, ma paranteticamente lo dico, sarebbe stato preferibile forse cominciare dalle imprese. Tuttavia, apprezzamento e un po' un'incertezza, perché in effetti quantificare quali saranno gli effetti di maggior crescita, abbiamo capito in questi giorni, è molto complicato. Detto questo, professor Puglisi, nell'apprendere in questi giorni che ci sarebbe capienza addirittura per 20 miliardi e non 10, però in quei 20 miliardi da Palazzo Chigi abbiamo appreso anche che ci sono 6 miliardi e mezzo per tornare al 3% rispetto al 2,5-2,6 che era la soglia di deficit, certo, con cui ci eravamo impegnati in Europa e così via. La convince questa improvvisa duplicazione delle coperture certe? Diciamo che dal punto di vista politico siamo sempre in questa terra di mezzo tra la politica e l'economia. Dal punto di vista dell'annuncio, della forza dell'annuncio, capisco il fatto di spingere e di enfatizzare il tema delle coperture. Io dal punto di vista, e quindi se ci sono di più meglio, perché vuol dire che si sta spendendo di meno. La questione fondamentale, mi ricordo una volta ne parlavo con Vito Tanzi, già sottosegretario del governo Tremonti, è distinguere, sembra una stupidaggine, però è distinguere una tantum da permanenti, ovvero sia questi tagli, queste possibilità di tagliare le spese dovute al fatto che si spende di meno sono valide una tantum, cioè solo per quest'anno, il 2014, oppure sono valide in maniera permanente, perché l'ingranaggio politico diventa complicato, si complica, si ingarbuglia, l'incertezza degli agenti economici, degli imprenditori, dei consumatori aumenta moltissimo se l'anno prossimo, 2015, siamo punto a capo a cercare fonti di finanziamento per questo tipo di eventi, perché altrimenti a copertura una tantum corrisponde sgravio una tantum. E soprattutto il consumatore che noi creiamo stupido lo capisce al volo, per un principio che si chiama l'equivalenza ricardiana, cioè dice: se io mi devo aspettare, se non sono permanenti, il fatto che comunque mi chiederete cosa l'anno prossimo, io col cavolo consumo tutto perché devo, esatto, mettere da parte. C'è anche dell'ottima ricerca, ogni tanto la ricerca economica è un po' astratta, non si capisce dove vada a parare. C'è un'ottima ricerca di un economista che si chiama Bloom di Stanford, il quale cerca di misurare l'andamento dell'incertezza sulle politiche economiche nel tempo, e la cosa interessante è che non lo fa solo per gli Stati Uniti, ma lo fa anche per i paesi europei, compresa l'Italia, e quello che si vede è che un aumento di questa incertezza sulle politiche economiche predice il fatto che gli investimenti nel breve termine, subito dopo, diminuiscano e il PIL abbia un andamento più, diciamo, più flat, più piatto, meno cresce. L'incertezza fa male nel breve termine molto, e secondo me ne abbiamo avuto una dimostrazione nel quarto trimestre 2013. Incertezza su questi 5 miliardi di IMU, ripeto, sono il 5% della spesa pensionistica, quindi sono molto poco, hanno precipitato, a mio parere, hanno aumentato di molto l'incertezza percepita dagli italiani e questo ha contribuito al fatto che i comportamenti di spesa fossero molto più restrittivi, come si è visto nell'andamento dei consumi, anche quelli alimentari, esatto, e così. Io devo dire, le chiedo un'opinione, perché io vedo che in realtà di questi 10 o 20 miliardi, da Cottarelli, cioè da tagli di spesa intesi come permanente, sono solo 3-5 rispetto ai 32 nel triennio, quindi vedo che il più, come dai tempi di Tremonti è sempre così, i più dei tagli di spesa preannunciati con programmi pluriennali sono sempre al terzo anno. Questa roba non mi piace molto, perché vedo che nel più dei 10 o dei 20 miliardi c'è appunto spesa in più per far risalire il deficit da una parte, dall'altra calcolo e stima dei minori interessi per l'andamento del debito. Certo, per il momento lo spread è basso, però vatte la pesca, perché questo non puoi considerarlo permanente. Questo potrebbe essere sensato, questa è la parte più sensata. Questa della, è la parte della poi faccenda, le stime di quello che viene dalla Svizzera. Per il momento il provvedimento non è neanche in un decreto, non sappiamo come è scritto, come si fa a stimare. A quel punto stiano attenti a tenere le aliquote basse, perché se vuoi creare qualcosa di permanente dovresti cercare di massimizzare l'ammontare che torna in modo tale da poi avere il 20% di tassazione sui rendimenti. Attenzione a fare questi calcoli sensatamente e non populisticamente. Qual è il modo migliore per avere una componente permanente anche da quella parte lì? Senta, lei dice la tesi che a me convince, devo dire la verità, anche però non viene raccolta dalla politica, per la quale i tagli di spesa sono una funzione eminentemente politica e non andrebbero né demandati a commissari pro tempore come l'ottimo Cottarelli, né tantomeno individuati coinvolgendo i vertici della pubblica amministrazione, cioè i 25 tavoli fatti da Cottarelli. Oggi Alesina Giavazzi hanno detto è tutto sbagliato, è il politico che deve dire io voglio 20 miliardi di tagli e voi me li tirate fuori e discuteremo di quali sono quelli meno recessivi, quelli sul totale della spesa dove si può andare a vedere, piuttosto che delegarlo ai vertici della PO, ai commissari tecnici. La convince o meno? Io sono un po' un Doroteo, nel senso, su questo non è anche Puglisi Doroteo è una sorpresa. nel senso che penso che ci vuole sia necessario un approccio intermedio, per cui da una parte non bisogna farsi catturare dai burocrati, dall'altra parte i burocrati in una qualche misura devono essere coinvolti, altrimenti l'esperto che viene da fuori non vede la palla, tanto per usare un gergo calcistico che non mi piace molto, però tant'è. E il punto di Alesina Giavazzi lo capisco, cerchiamo di capire di quanto si taglia. La percezione, cioè l'aspetto fondamentale è politico, e su questo sono d'accordo con lei, da questo punto di vista, sotto questo profilo, che il chi paga è l'essenza della politica. Si deve capire, si devono mettere le cose in chiaro, quindi un chi paga trasparente è la cosa migliore. Io ritengo che il chi paga debba avere una forte componente generazionale. La divisione destra e sinistra è quasi meno rilevante rispetto a questo. So di essere in minoranza, ma non mi interessa. No, ma certo, perché sinceramente penso di tenendo conto appunto di quante sono le varie spese, il chi paga deve andare in quella direzione. Sul quanto, sinceramente, tanta parte di PIL è intermediata dallo Stato, che la direzione verso cui andare mi sembra evidente, sinceramente. Senta, una domanda secca, ma se i casi, che sono numerosi, di paesi di esperienza, tradizione, ordinamento diverso negli ultimi 30 anni, i casi di paesi che erano nei guai, che pure hanno saputo in maniera permanente riassestare il livello della spesa pubblica sul PIL e il livello dell'entrata sul PIL a 5-6 punti meno rispetto a quello che erano prima, ed è il caso del Canada, l'Australia, la Nuova Zelanda, la Germania e così via. Se questi casi in Italia vengono considerati praticamente assai poco perseguibili, non dipende anche, io ci metto grande colpa anche di noi giornalisti, ma non dipende anche un po' da voi economisti che la pensate tutti che lo Stato non si tocca? Ma sinceramente che tutti gli economisti pensino che lo Stato non si tocca, la maggioranza io la vedo in questi termini, c'è una certa predominanza macroeconomica in Italia, e all'interno di questa predominanza dei macroeconomisti c'è una predominanza keynesiana, io chiamo i keynesiani dei noantri, quelli per cui praticamente spendere va sempre bene, prendono la frase di Keynes sul riempire e svuotare le buche come un mantra. Quindi diciamo, mentre io sinceramente penso che Keynes fosse in Italia sarebbe inorridito e chiederebbe scusa a Hayek, diciamo, ecco, non avrebbe un orientamento di questo genere. Penso che manchi anche la microeconomia, cioè l'idea di andare a vedere, misurare le cose, ad esempio la pubblica amministrazione, vedere quali tipi di incentivi ci sono dentro la pubblica amministrazione all'interno dell'organizzazione. Va bene, io devo dire che sono molto d'accordo con lei, ora vedremo di quanto ci deluderanno oggi, naturalmente bisogna avere fiducia e tentare di costruire fiducia. Esempio del giorno, l'ATAC a Roma, la scassatissima ATAC a Roma, ogni giorno che Dio manda in terra, fa saltare, sapete quante corse? Più di 1000 al giorno, avete capito? 1000, delle quali del 60% non è in grado di dire perché sono saltate. Ecco, questi sono gli microindicatori a cui fare riferimento per avere efficienza dei nostri soldi. Grazie al professor Puglisi, continuate su Radio 24, appuntamento con me a domani.